gioia, è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Gli organizzatori della Leopolda hanno detto chiunque ha qualcosa da dire può venire. Lei ci va alla Leopolda? No, io ho già il weekend impegnato con la CGIL in piazza e le bandiere rosse, almeno quelle. Eccolo qui il dubbio mio, che non è il dubbio di Civati. Sabato, che si fa? Si va alla Leopolda? Si va in piazza con la CGIL? O si sta sbracati sul divano a guardarsi una partita della Premiership? Io non lo so, o in gita, in montagna. Chi lo sa? Che fate? Ditecelo al 349-238-6666. Popolo di 24 mattino! Popolo di debosciati! No, se siete svegli adesso non siete debosciati, anzi, vi voglio tanto bene. E scriveteci! Che fate sabato? Siete colti da questo amletico dubbio? Andare alla Leopolda o andare alla manifestazione della CGIL? Oppure fate altro? Questo è 24 mattino, e c'è Lorenzo Nespoli in redazione insieme a Peter Bescapè in regia. Siamo qui di martedì. Ah no, porca miseria, questo è uno spot. È uno spot, vi giuro che non era pagato da Floris questo. Vabbè, iniziamo dai col Parlamento. Ecco perché l'ha chiamato di martedì. Siamo qui adesso di martedì. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Che bella voce, che bella voce la voce. Forza, gente, che bella voce la voce. Allora, dove andrà per esempio Vincino? Un uomo che da due giorni cerca donne con cui fare un figlio, dicendogli dai, 80 euro, arrivano gli 80 euro. No, non è così. No, questo è già dato, guarda, due figlie, guarda, è il massimo che uno possa realisticamente. Anche perché dopo due figlie, insomma, dopo tutte donne. Esatto, poi vabbè, no, ma questo donne e uomini, vuol dire, no, ormai non facciamo più differenze. Ah sì, vabbè, giusto. Cose, bravo, no? bravo, un bello spot, non fai differenza di genere, un bello spot per presentarti Marione Adinolfi, uno che... Mario, buongiorno. Lui, no, mi sembra... Buongiorno, mi fidanzo io con Vincino, allora sì. Si può fare. Sì, sposo, poi in là con gli anni, quindi c'è pure la reversibile della pensione tra poco, quindi mi va benissimo. Esatto, esatto. Mario Adinolfi, un uomo che teme quello che sta per succedere tra poco, cioè stiamo arrivando, Marione, abbiamo preso due punti, stiamo arrivando. Un po' tutti, cioè, hanno preso due punti, però insomma, diciamo, salutate la capolista, insomma, certo. Vabbè. Allora, vogliamo non voglio iniziare dalle cose noiose. Adesso Adinolfi vi racconterà cos'è il Partito della Nazione, vi racconterà cos'è il Renzellum, vi racconterà cos'è la nuova legge elettorale, una roba di una noia mortale. Vincino alle 6:30 proprio. Mortale, guarda, poi questa mattina era particolarmente faticosa. Mamma mia, cioè, queste robe qui. Adinolfi, vuoi rendere gioioso questo argomento morta? Ma perché non vi appassiona il premio di lista? Scusate, è un'invenzione così bella. Il tanto bisognerebbe spiegare chi è. Che, cioè... Perché lo spiega a fare? C'è un pubblico che non ne capisce niente, pure voi zoppicate in materia. Che... Prendete il titolo, c'è il premio di lista. Sarà il premio di lista. Avremo il premio di lista. Tutti no, non felici. L'avremo perché Forza Italia è agitata. Non avremo il premio di lista perché avremo Forza. Una discussione sul premio di lista. Avremo una bella discussione sul premio di lista alla Leopolda. Vabbè, intanto giustamente Fra da Milano ci scrive: ma sabato c'è Real Barcellona. Ma c'è Real Barcellona, ma no, andate la Leopolda, la CGL Real Barcellona. Tu Adinolfi, dove andresti sabato? Io sabato gioco a poker tutta la notte, quindi c'è bisogno di riposare durante il giorno e anzi il vicino vuole venire a giocare a poker perché sappiamo che è ricco e può essere spennato, noi lo invitiamo tutti, insomma, quindi cioè, proprio, questa è la mia attività. Ma vicino, ma digli qualcosa. Idee sbagliatissime, guarda. Cioè, ma digli qualcosa, cioè, è ricco, lo spegniamo. No, lui l'ho invitato, non vuole giocare con me, Ainis e cosa. Ainis, ma io posso andare a giocare con Ainis. Certo, Vincino gioca a poker con Ainis. Intanto ti spiega cos'è la riforma elettorale, Ainis, magari, così. Cos'è il premio di lista. Ci racconta le sue telefonate. Vabbè, e quindi Vincino non vai a poker? No, vabbè, non ti vuole. A poker non mi vuole, basta, sono offeso e niente. Lui è troppo bravo, non posso giocare con quelli. Ma non è vero, è solo perché gli voglio bene, non ci gioco. Io sono solo perché gli voglio bene. Esatto, solo perché gli vuole bene non ci vuoi giocare. Che è peggio, è la cosa peggiore. No, Vincino, non ti voglio spendare dei soldi. La cosa più... distrutto proprio, la cosa più terribile, che è rovinata completamente, è la cosa più terribile che tu gli potessi dire, Mario. Cioè, guarda, Gianfranco Paci si organizzano con loro al foglio adesso. Cioè, Gianfranco Paci hai giocato con Lanfranco, quello è bravo. Lanfranco è bravo. Lanfranco lo inviti al tavolo. Ma cosa vuol dire gioco a poker tutta notte? Che fai? Dove ti trovi? Vai in una bisca clandestina? Ma quanti dettagli che vuoi che do? No, vabbè, ma vabbè, mica mi devi dare l'indirizzo. Ma che fai? Cioè, vi trovate a casa di qualcuno? Ci si trova, c'è un torneo la sera, ci si incontra, insomma, con gli amici. Noi facciamo questo poker particolare, si chiama Texas Hold'em, no? Sì, poker, carte, sì, lo vedo su Sky, non capisco niente. È una cosa un po' complicata, insomma, per cui ci si ritrova e si fa questo esercizio di stile. È un piccolo ritrovo per... Ma che fate? È una bisca clandestina, diciamo, è una bisca clandestina, ma questo è... No, figuriamoci. Non giocate soldi, mettete i fagioli, fagioli. Caramelle rossana. Caramelle rossana gioca. La mia passione. Ah, vabbè. Io gioco solo per le caramelle rossane. Vabbè. Allora, vogliamo partire da... Vogliamo dare questa copertina a Gasparri? Vincino, hai visto che ha fatto Gasparri? Quello bisognerebbe levargli Twitter da vita, guarda, perché... Solo Twitter? Anche altro, vabbè. No, però... nel senso il seggio, intendevo, no? No, il seggio non lo so, quello non come dire, quello sono cose di Forza Italia, di queste cose qua. Poi lui è proprio pensionato del Parlamento, cioè da 40 anni, insomma. Vabbè, comunque se l'è presa con chi? Se l'è presa con una ragazzina. Beh, prima se l'è presa con Fedez, cos'è, com'è che lo chiama, quel coso colorato, tipo una roba del genere. Ma è così carino Fedez. No, vabbè, è orrendo con tutti quei tatuaggi, devo dire. Quando i tatuaggi sono troppi, poi dopo diventa una roba orrenda. Comunque, e se l'è presa poi con una ragazzina, una fan di Fedez, un po' sovrappeso, così, tra l'altro dicendo: sei messa male, un po' più dieta. Ieri era un giorno da pecora. La ragazzina ti ha sgridato e tu hai insultato dicendo che era grassa. Allora qua tutto Twitter è impazzito e dice che tu devi chiedergli scusa. No, devi chiedere scusa alla bambina. Chiedi lei, scusa. No, lei non ti ha insultato. Ma devi chiedere scusa. Ma detto che sono sporco, quindi chieda scusa a lei. Perché Allora, io non voglio la tua... sono stato insultato, vuol dire che il mio avvocato dovrà denunciare i genitori di questa ragazza. Se mi ma addirittura il genito è Adinolfi. Tu che sei un po' sovrabbondante, diciamo. Ma quale sovrabbondante? Tu che questo tipo di insulti li ricevi quotidianamente? Io sono d'accordo con Gasparri. Bravo Gasparri, ha trattato il pubblico come va trattato, in quella maniera. Ho capito, ma ha detto alla ragazzina: sei grassa, cioè non si fa. Ma Gasparri, come fai a non starti simpatico? Se stai un po' su Twitter, cioè Gasparri è veramente straordinario. Io adoro Gasparri, non toccatemi Maurizio Gasparri. Certo, ma perché lui è uno che riesce a mettersi controvento in una maniera straordinaria. Ovviamente, insomma, tutti gli danno addosso per una settimana. Ha chiamato Fedez Coso Dipinto, cioè Coso Dipinto, sì, che sì. Fantasia, ma ci vuole poi. Vabbè, ma Coso, ma infatti finché dice a Fedez certo. Coso Dipinto, uno ci scherza su, ci ride, ma però gli un ha detto un po' più dieta, ha detto. Vabbè, un po' più dieta, ma che sarà mai, noi ciccioli ce la prendiamo, non ce la prendiamo, siamo sportivi, insomma, non succede niente, non è grave, non denunciatevi, risparmiate i soldi e no. Allora, tanto le querele non si fanno, non si annunciano, si fanno, quindi non si fare annunci per avere casino. Dopodiché risparmiate, sono stupidaggini, non siate permalosi, ovviamente. Che devo dire? Che Gasparri non se la prende con la ragazzina, ovviamente con la ragazzina. Però questo lo dice uno banale, tempo, diciamo così, montarci su tutto sto casino mi pare abbastanza. Ma no, vabbè, ma infatti è il popolo di Twitter che quindi conta per quello che è. È un popolaccio. Salutiamo stamattina quelli che hanno già cominciato a insultarmi. Amen. Cioè, se pensano che uno se la prende, è finita. Intanto scusa, mi arriva un messaggio perché Vincino, sì. Qualcuno ci chiede, ma non è che il busto di Andreotti è di oro massiccio? È di marmo puro. Però marmo pregiato, non mica marmo pregiato, assolutamente. Ho aperto la finestra, ho controllato, però c'è buio ancora, però si vede perché è bianco. C'è buio. Vabbè, dai, ma di che dobbiamo parlare? Del bonus bebè? Noi oggi avremo Alessandra Moretti alle 8:15, parleremo anche con Gustavo Piga. Insomma, questa storia del bonus bebè. Come lo vedi, Vincino? Seriamente, Renzi con la sua cavalcata, come lo vedi? È un po'... Cicogno l'ho chiamato. Come? Cicogno. Cicogno. Ah, arriva da biberon, pannolini, cose, vola nell'aria, il nostro Cicogno è stupendo. Quando... che poi lui è arrivato tutto vestito, no? Sì. È stato un'ora in camerino e poi è uscito un seminudo praticamente. Che senso? Dico, ma con la camicia, cioè è arrivato vestito, giacca, cosa e quell'altro. Il camerino si è levato tutto. Cioè, invece di vestirsi in camerino, dico, si è messo l'abito di scena, no? Io capisco, cosa fa caldo a Roma, uno arriva in camicia, no? Sì. No, lui arriva giacca, cravatta, quell'altro e esce. È stato bravo. Questo è il giudizio di Vincino. Te Mario, tanto dici, ma tanto può fare quello che vuole. Tra le pubblicità. Ho capito, ma lui può fare quello che vuole, il che vuol dire che può annunciare bonus bebè. Poi oggi che ci dirà oggi? Ma quanti mesi sono che vi sto dicendo sempre la stessa cosa? L'imperatore d'Italia, ormai fa come gli pare. Oltretutto, non so se avete visto i dati d'ascolto della Tuzzo. Sì, 23%. Ha fatto quasi il 23% domenica live, cioè una cosa incredibile. Intanto non so se avete sufficientemente sottolineato il ruolo decisivo nell'agone politico di Barbara Tuzzo. È una che è riuscita a resuscitare Berlusconi un'altra volta e in questo momento a fare da scendiletto pure a retto. È un elemento scendiletto straordinario. Beh, le interviste di Barbara sono meravigliose, io sono stato lì anche ospite più di una volta, è meravigliosa Barbara perché non ci capisce proprio niente di politica, è ovvio. Ma è l'interlocutrice ideale, cioè l'intervistatrice ideale. Non gli chiede niente, ovviamente, il premio di lista, per carità. Se gli chiedeva il premio di lista, lo Cher scendeva al 3% di colpo in un secondo. Vroom. Quindi cosa puoi andare a dire? Qualsiasi pregiaccia, quindi 80 euro e bonus bebè. Sì, ho capito, ma allora che siamo un popolo di rincoglioniti? Cioè, ma io da quanti anni sono che te lo dico? Eccoli, Vincino, siamo un popolo di rincoglioniti. Ma pensa a quelli che ci capiscono di politica ieri alla direzione, che mi hanno detto un poco, tutto il tempo a rompere le scatole sulla Leopolda, sui cosi, e la Leopolda era solo miseri 2 milioni, peraltro, mica tanto, no? Noi, perché non ce li danno il PD, è quello, è quella, una storia, guarda, è quelli che ci capivano di politica. Sì. Ma quelli sono meravigliosi, Vincino, E dire che scusate, ma anche Berlusconi ha detto da due giorni che la gente non guarda più la TV, i talk show non contano più, la politica non serve più la TV, non serve più niente, non leggono i giornali, bisogna tornare a fare il porta a porta con gli elettori. E invece evidentemente conta ancora. Lì si è sbagliato, lui diceva non conta più il talk show politico, sì. Cioè certo, guardarsi stasera Massimo Giannini a Rai 3 è da malati, evidentemente. Insomma, no? Adesso, sì. Adesso. Sapere come si chiama già, chi è quello? Ah, è Massimo Giannini, non è che il nome. Ma che c'ha con Massimo Giannini adesso? Però, Barbara D'Urso è un'altra cosa. Odia Massimo Giannini. No, io mi sta simpaticissimo, però oggettivamente, no? Ha detto esatto, sorridi esatto, e non ha mai sorriso in vita sua. No? Barbara D'Urso è un'altra cosa, è un altro livello, cioè, capito? Allora, Vincino se la prende con quelli della direzione, quella della direzione sono un branco di geni. Fanno la guerra, si prendono 15.000 al mese per stare in Parlamento, sì. È una cosa geniale, un'operazione geniale. Sentite comunque, a proposito di Barbara D'Urso, Renzi dalla Barbara D'Urso, è la Barbarona. Terza volta che vieni qua, perché già un'altra volta tu hai sceso quelle scale ed eri sindaco di Firenze, ricordi? È un bel tre o quattro anni fa. Tre o quattro anni fa. Quindi ero la tua terza molto volta. Più magro. Vabbè. No, no, sì, però, davvero? No, eppure corri, vedi che fai un sacco di maratone, cose, andiamo, anche sport. Quando ancora potevo, ora si corre in un altro posto. Ero più magro. Poi senti qua, quando smetti di fare il premier... di fare il Presidente del Consiglio magari fra 150 anni non no, te ne frega niente no. Che ne so, fra 150 anni conduce una trasmissione con me. Questo... Conduciamo una trasmissione insieme. Ma voi vi rendete conto? Il Presidente del Consiglio. Senti questa, senti su Agnese, come fa Agnese, la moglie di Renzi. Come fa Agnese a stare con te? Mo sentiamolo, eccolo, ci siamo. Ma Agnese, che è così discreta, elegante, carina, che si è ritrovata in questo rutilante mondo con Obama, Michelle, come sta? Cioè, ecco, la domanda è come è così discreta, elegante, carina, come fa? Vincino, ti prego, fai qualcosa. Come sta? Come sta Agnese, eh? E lì Renzi è stato un po' in difficoltà, perché effettivamente è un po' messo alle corde dalla pressante, Domande ficcanti, direi. Che deve fare? Questo è. Come sta Agnese, con Obama? Chi lo è sa? Una domanda imbarazzante. È imbarazzante, infatti. Infatti. 24 mattino. Milan, una cortesia, dica per l'ignorante di Adinolfi che dall'euro si può e si deve uscire. Credo che più del cepo non è andato lui in termini scolastici. Io mi domando, ma può Renzi agire così da solo, in modo così dittatoriale, a impulso, a capriccio, durante una trasmissione televisiva? Ma è come un capriccioso dittatorello, ma non è possibile, ma noi dobbiamo fermarlo. Buongiorno Milan, mi dispiace dovertelo dire, ma sei diventato il leccabì dell'informazione. Per quanto mi riguarda, viva Renzi, e se i governatori vogliono dare le dimissioni non solo ce ne faremo una ragione, ma ci faremo pure quattro risate. Salve, sono pienamente d'accordo con quel tuo ascoltatore che ha detto che se ogni lunedì ci fosse Adinolfi nella tua trasmissione lui non l'ascolterebbe più. Allora anch'io dico la stessa cosa, perché Adinolfi è una persona insopportabile, boriosa e presupponente, per cui fammi il tanto piacere di non invitarlo più, altrimenti anch'io terrò chiusa la radio ogni lunedì, va bene? Arrivederci. E vabbè, ma oggi è martedì. Oggi è martedì. Oggi è martedì. Abbiamo fregati. È stato... No, vabbè, ma non è che... Ecco, allora, subito. Vincino, oggi è martedì e quindi... Perché di solito lo chiamiamo lunedì, io spero ogni volta che la Juve perda in modo da... Stavolta ho detto col Sassuolo non lo chiamo, tanto la Juve vince. Zac! Quindi è il trucco, forse è questo il trucco, è chiamarti il martedì. L'abbiamo fregati, Milan, l'abbiamo fregati. Questa cosa di... Adesso hanno acceso la radio, speranzosi di trovare stille di saggezza e la loro rabbia finalmente incanalata in una direzione rivoluzionaria, e invece tac! Tac. Pubblico si conferma per quello che è, trova la sorpresa. Eccola, vuoi lanciare il tuo grido di battaglia o no? Nanni Moretti, salvami tu. Pubblico di merda! Allora, Vincino, che dobbiamo fare questo? Che beh, c'è? È una mattinata difficile questa qua. Vabbè. È una mattinata un po' difficile, effettivamente. È una mattinata un po' difficile. Come vuoi salvarla tu? Con che notizia vuoi salvarla? Cosa ti ha colpito, Vincino? Di quello... Qual è la notizia, secondo te, sulla quale dobbiamo stare? Su Storace, Storace, che sarà nostro ospite alle 8.45. No. Sindaco di Vorno, quello là, che sì. Poverino, che si la guadagna troppo poco, là, che... una grande città, Benvenuto Livorno non era, c'era una cittadina media, insomma. E guadagna ha detto che guadagna troppo poco, no? Guadagna troppo poco, ha detto, sì. Nogarin, Filippo. Nogarin, ha detto guadagno, non so, tre volte soltanto un, non mi ricordo chi, ma insomma, cioè, 7.000 rotti euro, non fa niente, perché poi... Ma no, come fa niente? Fa il sindaco. Dai, i sindaci che fa, non fanno niente. Ma come i sindaci? Ma i sindaci sono gli unici che fanno. Ma i sindaci sono... Mica un parlamentare, ma i sindaci sono, devono fare invece tutti i giorni. Ma dai, che ecco, dai, io quelli che conosco io. Ma come? Ma ce n'era uno a Palermo un tempo, no, quest'ultimo, quello precedente, è stato 8 anni senza fare niente. Ma ho capito, ma Vincino, ma digli sì, Vincino, di non finirgli qualcosa. Il sindaco fa una faticaccia infame e c'è un'altra questione, non ha l'immunità. Quindi appunto, quando firma qualsiasi minchiatella sta sotto processo potenziale, perché ovviamente la l'ufficio, la cosa è sempre dietro l'angolo. Ma io manco il mi pago 70.000 al mese vado a far sindaco di Roma, o roba del genere. Hai visto si può il sindaco fare, in galera? Chi è? Hai visto un sindaco in galera? Beh, insomma... Beh, la galera non la fa nessuno, come sai. E allora, che ti frega, dai. Ma che lo vuoi fare? Vuoi mettere i sindaci in galera, così? Ma no, ma no, non voglio mettere i sindaci in galera, però, come dire, non stiamo a fare il sindaco, fa che te ne fa, dai, insomma, non è che poi, se vuole, può fare, fa disastri, come fa Marino, e quello qua, però... Eccolo, abbiamo trovato l'accordo. Eccoli, ma tra l'altro, ecco, devo chiarire questa cosa, perché mancano 30 secondi, ma Adinolfi, io ho letto un po' distrattamente che fai un giornale, cos'è che cosa succede a gennaio? Vedi, ma certo che lo so, sono cavolino, fra due mesi vedi che roba, insomma, fra due mesi vedi che roba. Ma usciamo che un quotidiano che si chiama La Croce contro i falsi miti di progresso, cioè un giornale che spiega tutti i giorni perché combinare quasi casini su questa cosa significa rendere un casino ulteriore alla società italiana. Cioè, sta cosa sarebbero i diritti, i diritti civili, i diritti. Che tu sei innamorato di questa roba. Ma però no, il matrimonio omosessuale è una cosa che non esiste. Ecco. Poi se Martin Luther King avesse fatto le marce per diventare bianco, su queste cose bisogna discutere. I diritti sono una cosa, diventare bianchi. Cioè, ma che sarà un giornale su carta? No. Su carta, cartaceo, si chiama La Croce. Dal 13 gennaio, io dico. Già, perché hai messo il 13 gennaio, che giorno è? Non è nessun giorno, è Sant'Ilario, però non penso che tu sia preparato in patristica. Sant'Ilario. Quindi, insomma, un'altra puntata. Vabbè. 13 gennaio, La Croce, direttore Mario Adinolfi. Intanto vi devo salutare, grazie, alla prossima. Che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta cacci cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, anzi quasi 19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi e per voi. Vi ricordo che oggi approfondiremo anche questa storia del bonus di 80 euro per le neomamme. Avremo ospite Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Avremo ospite anche Gustavo Piga, economista. E poi parleremo con Francesco Storace, che oggi si presenta in tribunale perché rischia, per l'accusa di vilipendio alle istituzioni, per un vecchio articolo nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rischia la condanna, appunto. E oggi c'è il processo, sempre che non venga rinviato. Francesco Storace sarà nostro ospite alle 8.45.

Buongiorno, eccoci, grazie. Onorevole. Così come grazie. Saluto Gustavo Piga, economista, insegna a Roma all'Università Tor Vergata. Buongiorno, professore. Buongiorno, come sta? Tutto bene, tutto bene. Allora, onorevole Moretti, uso questa immagine che ha usato qualcuno, è un po' brutale, ma per farci capire, questa storia degli 80 euro non è come buttare un po' l'osso al cane affamato? Ma direi proprio di no, sicuramente è una misura che probabilmente, come diceva lei prima, ha secondo molti spiazzato, così come ha spiazzato molti questa manovra economica, nel senso che il bonus degli 80 euro e questo appunto bonus relativo appunto alle neomamme è una delle misure estensive di quell'appunto bonus IRPEF per i redditi bassi che Renzi aveva detto di voler estendere ad una platea più ampia. Con questa scelta il governo inizia quella manovra di allargamento di risorse a favore dei cittadini, cioè più soldi in tasca chi guadagna poco e ha anche una famiglia da mantenere. E in campo si mette l'accento finalmente sul sostegno alla maternità, che significa molto in un paese in cui la maternità è vissuta ancora semplicemente come un costo. Su questo non c'è dubbio, però si dice appunto non sarebbe meglio politiche di welfare più strutturali, l'esempio della Germania è quello in cui si arrivano addirittura assegni fino al 18° anno, talvolta è forse l'esempio più virtuoso almeno per le politiche di famiglia. In questo dicevo sembra buttare il cane all'osso, cioè per il momento vi diamo 80 euro, beh, è una misura un po' così annunciata di colpo. Ma guardi, in realtà io credo che sulla maternità sia necessaria una riflessione molto profonda. Io adesso vi parlo da Strasburgo, ho in mano uno dei dossier più impegnativi che è quello sul diritto alla maternità europeo di cui mi occuperò. La settimana scorsa ero a Lussemburgo e ho parlato con tutti i ministri europei di questo problema e tutti i ministri di Europa hanno confermato che effettivamente sulla maternità è necessaria una riflessione molto ampia, perché non è più sufficiente nemmeno chiamarla più diritto alla maternità, c'è un diritto alla paternità, o meglio ci sarebbe un diritto alla genitorialità, e quindi il tentativo della coppia per esempio, no, di gestire i figli conciliando le responsabilità e non rinchiudendo la donna in un recinto, cioè attribuendole solo alla donna, no, il diritto e il dovere di crescere i figli. Certo, ci sono tante misure da mettere in atto. Una è quella che lei dice, giustamente i servizi educativi alla scuola, ma i servizi anche generalmente quelli di cura sulle spalle delle donne ancora ricadono tutte le responsabilità di curare non solo i figli, ma anche i genitori non autosufficienti, un figlio disabile. Però questa misura è un passo importantissimo. Questo governo mette in campo la più importante rivoluzione rosa che si sia mai vista. Quindi, abbiamo il primo governo paritario della storia della Repubblica con ministri e ruoli mai occupati e oggi abbiamo anche una maggiore attenzione alla maternità con il bonus, ma anche con politiche sociali adeguate. Lei dice adeguate. Nel frattempo, in attesa di fare diciamo elementi di riforme più strutturali anche in questo tema, 80 euro, ma certo su questo 80 euro c'è anche chi ci scrive già il limite di 90.000 euro, ricordo per nucleo familiare è altissimo, è già qualcosa, però chiedo al professor Piga, perché la domanda quando si fanno queste misure, quando si annuncia queste misure è sempre la solita: i soldi ci sono, professore? Guardi, facciamo un rapidissimo passo indietro. A cosa serve questa manovra? Questa manovra serve per cercare di evitare il quarto anno di recessione consecutiva. Questa è la ragione per cui si fa una legge di stabilità. Io dico invece che al di là del testo finale che aspettiamo sia adesso sia dopo l'esito parlamentare, ci sono molte certezze che abbiamo sulle scelte che ha fatto Renzi, alcune delle quali possono essere considerate molto discutibili. La prima è, dipende poco forse da Renzi, ma è come si pone Renzi rispetto all'Europa, e la mia risposta è con questa finanziaria con un piede dentro e un piede fuori, perché se è vero che si tiene al 3%, una cosa che tutti gli imprenditori sanno avendo letto il documento di economia e finanza dichiarata dal ministro Padoan è che l'anno dopo torneremo al 2%, tra due anni all'1%, tra tre anni allo 0%, e quindi gli imprenditori che fanno investimenti e guardano a lungo periodo sanno che non siamo ancora usciti dal ricatto di questa costruzione europea stupida. Lo potremo fare più rapidamente perché la Germania in questo momento è debolissima, come mostra la Francia. 3 anni di fronte a noi con manovre di 50 miliardi non sono un segnale che farà ripartire gli investimenti con facilità. La seconda scelta che ha fatto Renzi importantissima è come stare dentro il 3%. Ci poteva stare in due modi dentro il 3%, a marzo facendo una spending review dura, seria, individuando gli sprechi, perché è importante individuare gli sprechi, perché se li becchi gli sprechi non sono recessivi. Se lo fa invece stare al 3% tagliando la spesa all'ultimo minuto con i tagli lineari, è veramente mettere benzina sul fuoco, perché sono tagli che incidono, sono appalti, sono stipendi e quindi sono prodotto interno lordo che cala. La terza cosa che le volevo dire è questa: io ho letto sconvolto sui giornali, anche dei miei colleghi, che questa è una manovra espansiva. Invece ora, così non è. Beh, guardi, i numeri sono chiari: il 2014 il deficit è del 2,9%, l'anno prossimo sarà del 3%, il PIL è passato al 2,9%, l'avanzo primario resta 1,6-1,7%, quindi uno la può chiamare al massimo una manovra neutrale, dove il deficit rimane lo stesso, quello che è, si girano le carte della spesa e delle tasse. L'esempio chiaro è venuto ieri quando abbiamo saputo che è salito il tetto per gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato da 6.200 a 8.060, allo stesso tempo abbiamo imparato, diciamo, che questi sono gli elementi secondo lei che sono poi sotto osservazione dell'Unione Europea, cioè lì ci sono, tra l'altro, per capire, nell'Unione Europea due linee: quella di Barroso, che è il presidente uscente, che vorrebbe essere più duro, oggi racconta i giornali che chiederebbe all'Italia ancora un taglio del 0,5% in questa manovra adesso, e c'è una linea un po' più morbida, che è quella di Juncker, cioè colui che succederà a Barroso tra poco. Sono questi i rilievi, insomma, c'è sempre questa Europa che ci guarda, professore. C'è questa Europa che ci guarda, ma concludo dicendo, qui ci sono chiaramente delle riduzioni di tasse e chiaramente dei tagli lineari della spesa. Quali dei due impatteranno più fortemente sul PIL? La grande scommessa di Renzi è di dire: io sono sicuro che con le mie manovre sulle tasse, per esempio la decontribuzione, le imprese, non le richiama al coraggio, ricominceranno a investire. Questa è una cosa rischiosissima. È rischiosa, ma dopo lo sentiremo. Insomma, il ministro Padoan ha parlato anche, ha fatto una cifra sul Corriere della Sera che ha confermato in qualche modo la luce annunziata, parla di 800.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni. Sulla questione del bonus mamme, professore, che ne pensa? È una manovra di che tipo? Ma è una manovra redistributiva, ovviamente, nel senso che dà, per esempio, la potremmo chiamare una manovra che dà alle mamme e leva a chi fa dei risparmi per la previdenza complementare. È una manovra tutta redistributiva, quindi quello che conta alla fine è se i tagli di spesa, i tagli degli appalti, che sono investimenti pubblici diretti nell'economia in un momento in cui nessun altro vuole investire, non avranno un impatto peggiore che la diminuzione di tasse. Tutto ci dice, tutti i dati storici ci dicono che in recessioni così gravi affidarsi al settore privato e non agli investimenti pubblici è un enorme rischio. Ma tra l'altro c'è chi ci dice: ma 90.000 euro un nucleo familiare è altissimo. Beh, altissimo vuol dire che ha il bonus chi sta sotto quel 90.000 euro, quindi vuol dire che la platea è forse più estesa di coloro che riceveranno questi 80 euro mensili. Onorevole Moretti, oggi c'è una cifra data da Federconsumatori secondo la quale un bambino costerebbe in media 6.700 euro l'anno. Questi 80 euro, vabbè, vorrebbe dire arrivare a 900 euro l'anno. Nasce così, cioè dell'idea di dire, sa che hanno anche detto, è una manovra elettorale questa di Renzi, cioè comprare non il voto dei bambini, certo, come ha detto Renzi, ma magari quello dei genitori e dei nonni, sì. Beh, sa, allora, e se ogni volta che il governo tenta di rimettere soldi in tasca ai cittadini la si vede e si legge come una manovra elettorale a distanza di 4 anni dalle prossime elezioni, insomma, mi sembra francamente un'osservazione. No, se si tagliano le tasse, no, se si tagliano le tasse per tutti, sì, se si danno spot, diciamo, cioè come gli 80 euro il bonus. Ma che intanto è stato dato. Gli 80 euro sono diventati strutturali con questa manovra, perché si sono trovati i soldi per rendere questa manovra strutturale. Mi auguro quindi che ci sia una tendenza a rendere strutturale anche un sostegno economico alla maternità. cioè finalmente guardiamo alla Francia come uno dei paesi che su questo sta facendo delle politiche molto, molto interessanti, e abbiamo copiato una cosa che funziona anche, anche in Europa, per cui devo dire che insomma da questo punto di vista io concordo con quanto appena detto dal, dal professore. Questa è una manovra che cerca di tagliare le tasse, che è uno dei problemi che in Europa è sentito, perché l'Italia e gli imprenditori italiani vivono una concorrenza sleale rispetto a tutti gli altri competitor, perché da noi la pressione fiscale è troppo alta. Dall'altro siamo il primo governo che, dopo aver fatto uno studio, un'analisi sulla spending review, sì, quella di Cottarelli, decide finalmente però anche di applicarla. Beh, cioè, non soltanto. Su questo il professore era un po' più scettico, a dire se sono fatti tagli lineari alla fine anche alle regioni, tagliate il 3%. Cioè, le cose di Cottarelli, guardi, le cose, allora, di Cottarelli, anzi, si dice sono rimaste un po' nel cassetto. Ma guardi, in realtà su questo io ecco non sono molto d'accordo, nel senso che intanto Cottarelli fa una spending review che sicuramente non si basa tutta su tagli lineari, ma cerca di andare a colpire le inefficienze e gli sprechi, e ogni cittadino italiano, Parlamento. Scusi un attimo, sì, perché sono in taxi, mi sto facendo accompagnare. Vabbè, allora facciamo così, andiamo in pubblicità, che poi rientriamo tra qualche istante. Sentiremo anche al rientro la voce appunto del ministro dell'economia Padoan, che parla degli 800.000 posti di lavoro. La facciamo pagare tranquillamente il taxi a Strasburgo e poi rientriamo tra un attimo. 24 mattino. 800.000 sono quasi 350 l'anno per i prossimi anni, o era per un anno solo? La misura vale per i contratti accesi nel 2015, sì, quindi si può immaginare che poi spalmati nel triennio siano di quell'ammontare. Però, ripeto, sono dell'ordine di svariate centinaia, noi possiamo sbagliarci per difetto. Però lei conferma 800.000 in tre anni, spalmati su tre anni? Potrebbe essere così. Potrebbe essere così il ministro dell'economia Padoan da Lucia Annunziata a parlare degli 800.000 posti di lavoro che si possono creare nei prossimi tre anni con questa manovra, e tra poco ne parleremo. Devo dire che sui bonus ci sono tante domande, ovviamente. Tra l'altro poi alle 11 Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone a Cuore Denari parleranno ancora di questo tema. Ma allora chiariamo, perché c'è chi ci scrive: io ho due figli di due anni e un anno, non ci sono bonus. No, ma cari ascoltatori, sono per i nati dal 2015, i nuovi nati, per cui l'INPS erogherà l'assegno in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda dei genitori in data successiva alla nascita o all'effettiva donazione. No, professor Piga, è così, cioè, non è che adesso uno c'ha un figlio, e purtroppo quando si stabiliscono delle norme che partono dal giorno dopo, c'è quello che dal giorno prima dice ma è ingiusta nei miei confronti, e ho capito, ma bisogna stabilire. Bisogna vedere anche che se ci saranno i fondi sufficienti, ovviamente, sì, e chi corre per prima, chi arriva per primo allo sportello. Forse il primo anno sì, perché ci sono questi 500 milioni nel fondo, ma dal secondo anno ci sono quelli nuovi nati nel 2016 e più da pagare quelli del 2015, se bisogna pagarli per tre anni. E quindi negli anni ovviamente si deve incrementare questo fondo. Posso tornare sulla frase del mio collega, ex collega, sì, Piercarlo Padoan sugli 800.000? Allora, bene avere dei numeri, così finalmente un governo si inchioda, come fece il governo Berlusconi con l'Unione, a un dato che potremmo verificare di performance rispetto alle sue aspettative. Due, ricordiamoci, quel numero dipende, è tutto nelle mani di cosa decideranno di fare gli imprenditori, e se gli imprenditori rimangono in questo contesto pessimisti, quei numeri ce li sogniamo. Però c'è una terza cosa, una certezza che purtroppo non viene ricordata e trovo scorretto non farla: la spending review di 15 miliardi di tagli lineari, scusi se insisto, entra sulla carne viva delle imprese, perché sono meno appalti pubblici, meno domanda di consumi da parte di tutta quell'enorme platea che domanda beni, prodotti e servizi, che sono gli impiegati pubblici che danno servizi sociali importanti. Abbiamo una marea di dati per dire che 15 miliardi di tagli a casaccio sono 18 miliardi, il moltiplicatore della spesa in recessione, sì, è 1,2, scusi se divento tecnico, 18 miliardi meno di PIL, quindi con una mano spera che riparta grazie al motore privato in un ambito di pessimismo. Ecco, ma perché dice Casaccio? Ma perché la dice a Casaccio? Cioè i tagli di Cottarelli. Perché questa battaglia la stiamo facendo da anni, perché il Regno Unito l'ha fatta in 5 anni, perché ci vogliono un sacco di investimenti per fare bene la spending review. Lei lo sa che noi non abbiamo ancora un database centralizzato degli appalti pubblici. Perché parlo sempre degli appalti pubblici? Perché è lì che c'è la ciccia, sono il 30% della spesa, il 15% del PIL, e ci stanno effettivamente quei famosi 30 miliardi di sprechi di cui parlava all'epoca Saccomanni. Ma come fa lei a sapere chi compra a un prezzo più alto se non ha i dati centralizzati? Cantone, chiudo su questo, sì. Gli sprechi sono corruzione, giusto? Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, arriva con una dotazione di 80 milioni di euro, gliela riducono per la spending review a 60 milioni di euro, con 12 dipendenti contro i 1200 dell'autorità di Hong Kong. Lei pensa che in Italia si possa fare la battaglia contro la corruzione con 12 dipendenti, mandando il presidente a lavorare all'Expo di Milano invece che sorvegliare tutto e mandare all'Expo di Milano i suoi dipendenti? Ma perché non li ha. Lei questi tagli di Cottarelli lei li ha visti? Cioè l'opera di Cottarelli la vede come un'opera che è rimasta un po' fumosa perché politicamente il governo non è riuscito a implementarla o non vuole implementarla? Prendiamo l'esempio, io credo che Carlo Cottarelli abbia proposto delle cose buone e delle cose sbagliate. Prendiamone una, secondo me, rivoluzionaria. L'ha fatta insieme a Cantone, o almeno ha provato a farla, sono le famose lettere che lui doveva mandare col presidente Cantone a tutte quelle amministrazioni statali che non avevano comprato come obbligo della legge nelle convenzioni Consip. Sì. Sono 10 anni che sappiamo che c'è quest'obbligo, sono 10 anni che i ministri del tesoro che hanno fatto la legge dove c'è scritto l'obbligo non controllavano. Era un passo importantissimo per mettere paura alle stazioni appaltanti. Io ho parlato con Carlo Cottarelli il giorno prima che andasse via e mi ha detto le lettere stanno ancora là. Stanno e ancora mi ha detto là. Gustavo, non sono 200, sono 300, ma stanno tutte ancora là. Sì, ma perché? Cioè che qualcosa... Ma come perché? Perché fare la battaglia sugli appalti pubblici... Ah, è politicamente fare scomodo. Fare la battaglia su una mera di soldi, quindi ce lo vogliamo dire o no? Che no, ma è chiaro, quindi si certifica che la spending, come dice lo stesso Cottarelli, è una scelta, e lo stesso Renzi, è una scelta poi politica, più che una scelta, oltre che una scelta economica, cioè dove andare a tagliare. Però, onorevole Moretti, 800.000 posti di lavoro, non è un po', vabbè, è chiaro che richiama il migliore di Berlusconi, dice il professor Piga, bene, almeno abbiamo un numero, tra 3 anni poi verificheremo, è una stima ottimistica oppure ci credete davvero? Beh, è certo che ci crediamo davvero, perché insomma la politica, visto che si è appena detto che deve fare delle scelte, noi abbiamo scelto di sostenere l'occupazione detassando il costo del lavoro, che era quello che gli imprenditori chiedevano da molto tempo, e rimettendo in tasca dei cittadini soldi perché possano, diciamo, far ripartire il mercato interno. Ma guardi, sulla spending review io concordo abbastanza poco con le ultime dichiarazioni, poi ovviamente i professori hanno i loro dati ed è giusto che li, come dire, ce li facciano conoscere, però non c'è un solo cittadino italiano che non sappia quanti sprechi ci siano nelle regioni, nei ministeri, anche in quelle che si dicono virtuose. Non si può mettere il carro davanti ai buoi ancora prima di aver intrapreso un percorso di seria spending review negli enti locali. Ma scusate, non so, i manager pubblici forse non sono troppi, le ASL non sono troppe, possiamo ridurle? Beh, io penso proprio di sì, tagliamo la burocrazia della sanità, perché bisogna sempre fare del terrorismo sui cittadini dicendo che si aumenteranno le tasse, quando si sa benissimo che si può tagliare il costo della burocrazia, quel duplicarsi di ruoli, di competenze che fa pagare al cittadino 2 o 3 volte il prezzo standard di un servizio, spostare le risorse dagli eccessi e dagli sprechi per concentrarli sul costo del lavoro. Beh, io penso che questa sia invece una manovra molto seria, che abbia coraggio, determinazione. Guardi, ieri mi è piaciuta molto una definizione che Renzi ha dato del Partito Democratico, il partito delle opportunità, no? Un partito che guarda al futuro, che guarda con fiducia al futuro, consapevole di fare ogni sforzo per riformare un paese che da troppo tempo è fermo sulle sue gambe. Cioè questo è un paese fermo, stiamo sbloccando, lo stiamo riformando dalle radici. Certo, è difficile, è rischioso, come diceva prima il professore, certo è tanto rischioso e noi rischiamo di spaccarci l'osso del collo come generazione di politici, però anche, dobbiamo... ed è un lavoro provare. Anche che arriva in qualche anno. Fatemi sentire un paio di ascoltatori. Andrea da Massa Carrara ci chiama. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. La mia domanda è secca, la Moretti, sì. È questa: perché non viene utilizzato per la ridistribuzione dei redditi l'ISE, l'indicatore economico familiare? Perché? Cioè, è un indicatore di Stato o no? Questa è la domanda. Faccio un esempio, le faccio un esempio. Io, famiglia monoreddito, reddito di 37.000 euro lordi, due figli e moglie, non percepirò gli 80 euro, vabbè, quelli bebè, ne ho preso gli 80 euro quelli che ha dato Renzi, giusto? Mentre famiglie con redditi di 80.000 euro, magari dove il coniuge... Non perceperà il bebè, se no se fa un bebè sì. No, vabbè, ma allo stato attuale, voglio dire. È chiaro, quello è legato a chi fa un figlio. Ma perché non viene utilizzato l'ISE? È un indicatore di Stato o no? Ok, Moretti vuole rispondere all'ascoltatore, Andrea? L'ISEE viene applicato, nel senso che io che ho fatto l'assessore comunale per 5 anni, mi sono occupata di servizi educativi e quindi anche di scuola, le posso assicurare che tutti i servizi comunali applicano l'ISEE per la determinazione delle tariffe che le famiglie devono pagare. Quindi è un indicatore che gli enti locali, e quindi che sono le istituzioni più vicine ai cittadini che devono erogare i servizi, quindi quelli sociali applicano sempre, quindi è uno degli indicatori a livello comunale viene applicato, sì, in effetti. Comunque io per il momento mi devo fermare perché c'è il traffico e ringrazio il professor Gustavo Piga, ricordo insegna a Tor Vergata, alla Consip è stato anche presidente, quindi ne sa e ne parla della Consip con conoscenza dell'argomento, e ringrazio Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Dopo il traffico invece gli ascoltatori, se ce la facciamo li prendiamo ancora, non vi preoccupate, ma avremo ospite anche Francesco Storace, che oggi rischia una condanna per vilipendio alle istituzioni, al capo dello Stato, per un vecchio articolo di qualche anno fa. 24 mattino. Alle 8:49 minuti con noi c'è il leader della destra, consigliere regionale Francesco Storace, del Lazio ovviamente, ex governatore, anche ex ministro. Storace, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Sta andando in tribunale? Sì, fra poco. In tribunale a Roma, perché lei rischia la condanna per vilipendio nei confronti del capo dello Stato, un vecchio articolo nel quale usò l'aggettivo indegno per riferirsi al capo dello Stato. Poi lei si chiarì peraltro personalmente con Giorgio Napolitano. Nonostante ciò, cosa rischia? Beh, la pena prevista è da 1 a 5 anni di reclusione. Se si fosse trattato di una querela, come accade per qualunque cittadino di questo paese, nel momento del chiarimento ci sarebbe stata la remissione della querela e non si sarebbero sprecati i soldi dei cittadini col processo, e invece tocca anche assistere e partecipare a questa commedia. Commedia lei definisce, ma perché commedia è il reato che non ha più senso secondo lei storicamente? A me pare evidente che sia anacronistico, era concepito in epoca borbonica, parliamo di un reato dell'Ottocento, reiterato nel tempo, e che però oggi, francamente, nell'epoca della rete, davvero non è lo scudo ideale per proteggere il capo dello Stato, anche perché, come ho detto ieri al ministro Orlando, è applicato solo per me praticamente, perché ne leggiamo di tutti i colori sul capo dello Stato, è molto più grave della parola indegno, peraltro persino chiarita, eppure non succede nulla. Ma lei ha capito perché nel suo caso si è proceduto? Cioè, voglio dire, ha proceduto d'ufficio, se non sbaglio c'entrava anche Mastella che autorizzò. C'entrava anche, fu lui che firmò l'autorizzazione, il che lascia capire anche la natura illiberale della procedura, perché io ministro decido se far indagare o meno un esponente dell'opposizione, cioè, ma nemmeno nei regimi sovietici. Diciamo, però spetta la legge, per come al ministro della giustizia allora era Mastella. È una legge sbagliata, infatti. Infatti. Ma lei ce l'ha con Mastella perché ha proceduto oppure ha applicato la legge? Non c'è dubbio, perché hanno applicato solo contro di me e non contro tutti, perché se fosse accaduto nei confronti di tutti avrei serenamente accettato una decisione che contesto, ma aveva una sua legittimità. Nel momento in cui una decisione applicata solo contro di te e contro nessun altro, permette, come diceva il marchese Grillo, che sono incazzato. Sta un po' incazzato. Senta un po', ma lei ha detto che è pronto ad andare in carcere, ma e non solo, ha detto se mi condannano e non mi danno il carcere, io reitererò ogni giorno questo reato. Cioè, che è pronto a fare? Allora, perché ha chiesto scusa una volta a Napolitano, forse gira una favola, no? Per cui dice vabbè, io a parte il fatto che mi aspetto la soluzione, perché il fatto non sussiste, perché io non ho commesso alcun vilipendio, e mi chiarì col capo dello Stato proprio perché ritenni, una volta incassato il sì del Senato alla liceità delle mie opinioni, perché poi c'è pure questo tema, io potevo anche farmi gli affari miei, sì. Il Senato dice sì, le potevi dire quelle cose, e nonostante questo presi carta e penna e dissi mi vorrei chiarire con lei, perché comunque il tempo è trascorso e mi dispiace aver ceduto. Detto questo, se poi si insiste, anziché assolvermi, mi si condanna magari con un buffetto, la sospensione condizionale, siccome è una vergogna il tipo di reato, io ho detto che lo reitero, magari scrivendo sul mio giornale d'Italia ogni giorno le stesse parole, e poi mi devono venire ad arrestare. Ma la gente deve sapere che il vilipendio del Presidente della Repubblica è un reato che non ha senso. Quindi o la assolvono o se no lei... Io voglio che venga tutelato il capo dello Stato, ci mancherebbe altro perché ho senso di istituzioni, ma lo si tutela con la querela, magari con una querela con la quale si procede con un rito direttissimo, in modo che chi offende ci pensa, perché il giorno dopo ci può essere il processo, ma non è giusto che ci sia un cittadino che ha una tutela in più. Anche perché questo articolo di quando è? 2007? 2007. Nel 2009, va bene. Chiarimento, e 5 anni dopo siamo... Ma chiarimento, cioè che Napolitano l'ha perdonata, cioè ha capito, ha detto vabbè dai... Vabbè, non è, in quel momento c'era un conflitto politico. Ci siamo chiariti che la natura di quelle parole era legata, tra l'altro Napolitano disse lui è indegno chi attacca i senatori a vita, e io risposi con la stessa parola. Sì, lei ha usato a brigante, brigante e mezzo. Comunicativamente usa lo stesso termine, non è che se lo dice lui è un complimento se lo dico io, lo figlio. Però c'è il reato, vilipendio, c'è il reato, vilipendio al capo dello Stato. Pensi che perché razza di reato che è? Ho capito, però c'è... È la stessa parola, detta da due diverse persone, per una è reato e per l'altra no, complimenti al libro. Senta, ma che ora è l'udienza? Dovrebbe essere a mezzogiorno. A mezzogiorno. Stanno dicendo che c'è il rischio addirittura di un rinvio. Eh sì, perché c'è lo sciopero dei... Una volta in ferie, una volta che sciopera, insomma. Si illude chi pensa che io possa inseguire la prescrizione del reato se resta così com'è. Il Senato stamattina intanto comincia a discutere la legge. Non so se verrà applicato per lei, non si farà in tempo, però dice ha smosso qualcosa. In conclusione, so che sono arrivate tante telefonate di solidarietà. Non è un problema per me. Per il futuro. In conclusione sono arrivate tante telefonate di solidarietà. C'è qualcuna che si aspettava e qualcuno invece che l'ha stupita positivamente? Mi aspettavo un segnale da qualcuno che sta sul fronte del centrodestra, che non è arrivato, e mi ha molto meravigliato. Da uno con Salvini mi sarei aspettato una posizione molto netta, però vabbè, potrà essere si ascoltato. E invece quella che l'ha stupita positivamente? Me l'hanno stupita una di destra e una di sinistra. La sinistra ha molto stupito un personaggio non notissimo alle cronache nazionali, il vicepresidente della Regione Lazio, Smeriglio, che è di SEL, con una tradizione assolutamente opposta alla mia, e ha usato parole molto belle. Dall'altra parte mi ha fatto piacere una telefonata che ho ricevuto da Fini, per quale è noto non ci fu semplicemente un grande idillio anni. E mi ha fatto piacere perché che notavo di avere comunque il stop. In bocca al lupo, ovviamente, a Storace, grazie. E sapremo se oggi alle 12 c'è l'udienza o se verrà rinviata per sciopero, ma prima o poi ci sarà. Grazie, ci fermiamo qui. A domani, 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.